Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Napolitano, servono sacrifici, non conflitti. Disoccupazione record, il 30% dei giovani è senza lavoro, a piccole borse europee. Israele va avanti, pronti a fermare altre navi dirette a Gaza. Le coppie razziste non possono adottare bambini, così una sentenza della Cassazione. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Domani 2 giugno è la festa della Repubblica. Il presidente Giorgio Napolitano ha diffuso un messaggio agli italiani e allora ve lo facciamo ascoltare integralmente. Un augurio affettuoso a quanti vivono e operano nel nostro paese per la festa che celebriamo insieme. Festa dell'Italia che si unì e si fece Stato 150 anni or sono, festa della Repubblica che il popolo scelse liberamente il 2 giugno 1946. In questo momento sentirsi nazione, unita e solidale, sentirsi italiani, significa riconoscere come problemi di tutti noi quelli che preoccupano le famiglie in difficoltà, quelli che nei giovani suscitano, per effetto della precarietà e incertezza in cui si dibattono, pesanti interrogativi per il futuro. Parlo dei problemi del lavoro e della vita quotidiana, dell'economia e della giustizia sociale. Stiamo attraversando nel mondo e in particolar modo in Europa una crisi difficile. Occorre dunque un grande sforzo, fatto anche di sacrifici, per aprire all'Italia una prospettiva di sviluppo più sicuro e più forte, per crescere di più e meglio, assicurando maggiore benessere a quanti sono rimasti più indietro, l'Italia deve crescere tutta, al nord e al sud. Si deve, guardando ai giovani, promuovere una migliore educazione e formazione, fare avanzare la ricerca scientifica e tecnologica, elevare la produttività del nostro sistema economico. Solo così si potrà creare nuova e buona occupazione. Il confronto tra le opposte parti politiche deve concorrere al raggiungimento di questi risultati e non produrre solo conflitto, soltanto scontro fine a se stesso. Si discutano in questo spirito le decisioni che sono all'ordine del giorno. Si scelga in questo spirito, nel Parlamento, nelle istituzioni regionali e locali e nella società, tra le diverse proposte che si dovranno liberamente esprimere. Ci accomuni, insomma, un forte senso delle responsabilità a cui fare fronte perché l'Italia consolidi la sua unità, si rinnovi, divenga più moderna e più giusta e si dimostri capace di dare il suo contributo alla causa della pace e della giustizia nel mondo. Buon 2 giugno a tutti. E questo lo avete sentito integralmente, il messaggio del capo dello Stato Giorgio Napolitano in occasione della festa della Repubblica, domani 2 giugno. Come avete sentito, il capo dello Stato fa appello all'unità in tempo di crisi. E intanto questa mattina, mentre la manovra del governo proprio fa i primi passi in Parlamento, sono arrivati i dati che fotografano la crisi. Crisi che, come diceva il Presidente della Repubblica, colpisce soprattutto i giovani. Allora cominciamo da qui, dai numeri, con Vincenzo Miglietta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Numeri quelli diffusi questa mattina dall'Istat sul mondo del lavoro, ampiamente previsti dai principali centri di ricerca, ma che messi così nero su bianco permettono di scattare una vera e propria istantanea sugli effetti della congiuntura. Il tasso di disoccupazione ad aprile è salito all'8,9%, dall'8,8% di marzo, e questo è il livello più alto dal quarto trimestre del 2001. Particolarmente penalizzati dalla crisi economica sono i giovani. La disoccupazione che li riguarda ha raggiunto infatti il 29,5%, percentuali inferiori ma sempre importanti per donne e duo. ed uomini. In generale, segnala l'Istituto di Statistica, il numero di occupati è diminuito in un anno di 307.000 unità, i disoccupati sono 2.220.000. Altro capitolo, la produzione industriale, su questa torna il sereno, lo segnala il Centro Studi di Confindustria. A maggio si è avuto un più 2,4% sul mese precedente, più 10% rispetto ad un anno fa. Il bilancio però resta ancora negativo se paragonato al periodo pre-crisi del 2008. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Intanto ci sono ancora proteste per la manovra finanziaria. A decidere lo sciopero questa mattina i magistrati della Corte dei Conti. Il Partito Democratico ha convocato la segreteria per discutere la linea da tenere. L'Italia dei Valori ha presentato una sua manovra alternativa. Ma a rendere la situazione ancora più difficile, le borse in Europa che vanno male, e soprattutto Milano. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Milano sta perdendo il 3,61% sul FTSE MIB in questo momento. Situazione abbastanza prevedibile, dato che Milano ha una forte composizione di titoli bancari, e infatti sono proprio le banche stamattina a tornare a scivolare pesantemente. Questo perché? Perché ieri la Banca Centrale Europea ha diffuso il rapporto sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona e ha anticipato che è prevista una seconda ondata di svalutazioni su prestiti e titoli dovute alla crisi finanziaria, che potenzialmente potranno ammontare a circa 90 miliardi di euro quest'anno ed oltre 100 miliardi nel 2011. Naturalmente gli investitori si sono affrettati a vendere i titoli del settore. UniCredit, Intesa, le big stanno perdendo fra il 5, il 6, il 6,5%, anzi, di UniCredit, il Banco Popolare meno 5, Mediobanca meno 5, Azimut meno 5, UbiBanca meno 5, Monte dei Paschi meno 4,84, Popolare di Milano meno 4,40, e questa è la situazione. Le altre borse europee perdono fra i due punti di Parigi e Londra, Francoforte meno 1,64, per cui la sfiducia colpisce soprattutto Milano, ma colpisce anche l'euro, che sul dollaro stamattina ha riaggiornato i suoi minimi da 4 anni a questa parte a 1,2108, adesso risale un po' a 1,2151. Per ora è tutto, Anna. Grazie Deborah Rosciani, situazione davvero non positiva, naturalmente continueremo a monitorarla nel corso della giornata, però intanto, se questa è la situazione sul fronte economico e sul fronte della crisi, restando alla politica italiana, c'è un altro fronte aperto e un altro fronte di scontro, ed è quello delle intercettazioni. A Palazzo Madama, dopo le polemiche nella maggioranza di ieri, dovrebbe tornare in aula martedì prossimo il contestato disegno di legge sulle intercettazioni. Il provvedimento è stato rinviato in Commissione Giustizia, che oggi approverà 9 degli 11 emendamenti presentati dal centrodestra. Le modifiche che riguardano i pedofili e la norma transitoria verranno invece esaminate la settimana prossima, ha fatto sapere stamattina il presidente della Commissione, Berselli. Io credo che si andrà martedì mattina. Per tutto il resto concluderemo i nostri lavori questa mattina, entro le ore 14. Proprio sulla norma transitoria, che estende anche ai processi in corso le misure previste dalla legge, aveva espresso delle perplessità il presidente della Camera Fini, protagonista ieri del botta e risposta polemico con il presidente del Senato Schifani. Per l'opposizione il rinvio deciso oggi in commissione testimonia che la maggioranza è ancora spaccata. I senatori del centrodestra attendono ordini dall'alto, attacca la democratica Finocchiaro. Noi abbiamo intenzione di aprire una discussione vera su una serie di punti, a cominciare dalla norma transitoria. C'è o non c'è questa disponibilità da parte della maggioranza? Questa è la domanda che io ho fatto. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Voltiamo pagina, veniamo alla tensione in Israele, dove restano in carcere molti dei pacifisti arrestati nel blitz alle navi che tentavano di aggirare il blocco di Gaza. Altre navi stanno arrivando e Israele non fa passi indietro. Un'altra nave irlandese della flottiglia di pacifisti è in arrivo verso la costa di Gaza. Sarà fermata, così come sono stati fermati gli altri. E questa, la nuova informazione che arriva dal governo israeliano mentre sfilano, una dietro l'altra, le dichiarazioni dei capi di governo di tutto il mondo per quanto avvenuto. L'esortazione quasi unilaterale è che venga fatta chiarezza su fatti avvenuti ieri e che hanno portato alla morte di 10 persone. Lo chiede anche il Consiglio di Sicurezza dell'ONU con un documento approvato dopo 12 ore di discussione. A New York. Un'inchiesta rapida, imparziale, credibile e trasparente, chiede l'ONU, che rimarca anche la condanna degli atti sfociati nella perdita di vite umane. 480 sono gli attivisti arrestati, 6 cittadini greci sono già rientrati con un volo israeliano. Anche 2 parlamentari tedesche sono state rimpatriate. Tra i detenuti invece ci sarebbero ancora 6 italiani che oggi incontreranno i rappresentanti del consolato italiano a Tel Aviv. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. A protestare soprattutto la Turchia, dove oggi ha parlato al Parlamento di Ankara il primo ministro turco Erdogan. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Il massacro sulla nave turca della flottiglia diretta a Gaza per portare aiuti umanitari è un colpo alla pace mondiale, ha detto il primo ministro turco. Ricordiamo che la nave dove ci sono state le vittime batteva bandiera turca e Erdogan ha accusato Israele di aver commesso quello che ha definito un atto di terrorismo di Stato. Nel sondaggio di questa mattina di Radio 24 noi vi chiedevamo se secondo voi Israele ha esagerato nell'utilizzo della forza. Il 57% degli ascoltatori ha risposto di sì. Intanto, come abbiamo sentito, altre due navi cariche di aiuti umanitari sono in rotta verso la striscia di Gaza, pronte a forzare il blocco navale israeliano. Vittorio Arrigoni, attivista per la pace attualmente nella striscia di Gaza, è stato ospite così questa mattina ai nostri microfoni. La barca in viaggio verso Gaza, la nave cargo Rashekovi, non ha a bordo Bin Laden, bensì ha dei premi Nobel per la pace come Meret Margrave e una sopravvissuta all'olocausto, un'ebrea di 85 anni che si chiama Eddie Epstein. Io l'ho sentito, sono motivatissima a continuare la missione perché sentono l'urgenza umanitaria di portare degli aiuti a una popolazione qui a Gaza che dopo 4 anni di assedio è ridotta allo stremo delle forze. Gaza è sotto occupazione perché i suoi confini sono occupati e chiusi da Israele con la complicità dell'Egitto. Torniamo in Italia, niente bambini alle coppie di aspiranti genitori che nelle procedure delle adozioni internazionali dichiarano davanti al giudice di volere solo minori di determinate etnie. È una decisione comunicata poco fa della Cassazione in una sentenza. Si riferisce al caso di una coppia siciliana che voleva adottare solo bimbi di razza europea. In questi casi il magistrato, dice l'alta corte, deve mettere in discussione la capacità stessa della coppia di poter adottare. Chi non ha copiato o passato un compito ad un amico sui banchi di scuola? Ma sentite cosa accadeva a Padova. Da che mondo è mondo, a scuola c'è sempre stato chi ha tentato di copiare, ma quello che è accaduto al liceo ginnasio Tito Livio di Padova è ben più grave. Una gang di studenti si sarebbe attrezzata per far pagare compiti e traduzioni di greco e latino e garantire così a chi chiedeva aiuto la sufficienza o anche qualcosa di più. 5 euro a versione, prezzi maggiorati per chi mirava al bel voto. Il meccanismo consolidato è stato scoperto dai professori del liceo. Consisteva nel far uscire dalla classe durante il compito il testo della versione. Fuori era pronto lo staff dei traduttori a pagamento, studenti delle ultime classi del liceo che in pochi minuti, grazie ai potenti mezzi di internet, riconsegnavano il testo tradotto in italiano o nei bagni della scuola o direttamente via SMS, a seconda dell'accordo o del prezzo pattuito con l'acquirente. A perpetrare la truffa, assai remunerativa, sarebbero stati almeno 6 studenti, ora sospesi da scuola. Si sentivano ormai così sicuri del meccanismo della truffa che spavaldamente avevano messo annunci e offerte persino nei loro profili di Facebook. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Padova. 13:17 minuti, GR24, queste le principali notizie di oggi. Il messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione del 2 giugno: servono sacrifici, non conflitti, l'appello ai partiti, più dialogo. È disoccupazione record in Italia, il 30% dei giovani è senza lavoro e oggi vanno a picco tutte le principali borse europee. Israele va avanti, pronte a fermare altre navi dirette a Gaza, restano in carcere i pacifisti arrestati ieri. Le coppie razziste non possono adottare bambini, così dice una sentenza della Cassazione. E noi ripartiamo andando, come dicevamo, in Sardegna, dove ha parlato questa mattina nell'aula del Consiglio regionale il governatore sardo Cappellacci, ha riferito sulla vicenda dell'eolico. Com'è andata, Valchiria Bandinelli? Buongiorno. Buongiorno, sì, clima incandescente in Consiglio regionale a Cagliari per la vicenda dell'eolico che vede indagato dalla Procura di Roma il presidente Ugo Cappellacci ed altre 7 persone. Il mio impegno è stato sempre quello di governare nell'interesse della comunità e del bene comune. L'uomo e il presidente si sono ritrovati nel tritacarne mediatico, non so di cosa mi si accusa. Così Ugo Cappellacci ha iniziato l'intervento in Consiglio regionale dove è stato chiamato a riferire sul suo presunto coinvolgimento nell'inchiesta di un ipotetico comitato d'affari per lo sfruttamento sfruttamento dell'energia eolica in Sardegna. Sono sereno e pronto a rappresentare la verità, ha detto il Presidente, sottolineando che le modifiche apportate in materia di energia rinnovabile sono dovute alla necessità di dare risposte alla crisi del Sulcis Iglesiente e di autorizzare la Portovesme SRL a realizzare un impianto eolico per le proprie esigenze energetiche e produttive. Dopo l'intervento del governatore, la seduta è stata sospesa. La richiesta dell'ex presidente di aprire il dibattito a tutta l'Aula ha scatenato una bagarre, anche perché Renato Soru ha accusato Cappellacci di aver contraffatto la realtà e le opposizioni per protesta hanno abbandonato l'Aula. Valchiria Baldinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E torniamo in studio con una notizia di cronaca. Una donna di 42 anni e la sua bambina di 5 sono state investite mentre erano in bicicletta in frazione Ponte Nuovo di Ravenna. È accaduto questa mattina attorno alle 8.30. Madre e figlia, secondo le prime notizie, sono in gravi condizioni. L'Europa vieta il fritto di mare e a protestare sono i pescatori. Sentite che succede. Da oggi non è più possibile pescare alcune specie marine a rischio di estinzione, come le seppie e i calamaretti. Lo stabilisce il regolamento mediterraneo, varato dall'Unione Europea. La misura coinvolge il lavoro di oltre 1000 pescherecci in Italia. Stamattina alcune iniziative di protesta in vari porti italiani, ma le critiche arrivano anche da chi non manifesta. Il presidente di Lega Pesca, Ettore Iani. Questo regolamento sicuramente è un regolamento che noi abbiamo contrastato fin dall'inizio. Siamo chiamati ad affrontare un'emergenza straordinaria. Così invece il direttore di Federpesca, Luigi Giannini. Noi abbiamo avversato in ogni modo questo regolamento, incoerente con la circostanza che queste norme vengano applicate solo ed esclusivamente da parte delle flotte comunitarie che operano nel mare Mediterraneo. Bloccata nei fatti anche la raccolta delle telline, perché il regolamento dell'Unione Europea lo impedisce entro i 600 metri dalla riva, quintuplicando i costi per i pescatori. Matteo Finco, GR24, Il Sole 24 Ore. E si sciopera anche in Cina, dove ci sono duri scontri. Sembra lentamente tornare la calma negli stabilimenti dell'Honda di Foshan, nella Cina meridionale, dopo gli scioperi iniziati la scorsa settimana, che ieri sono culminati in una serie di scontri tra operai e rappresentanti del sindacato. La produzione della casa giapponese in Cina è rimasta praticamente paralizzata per quasi una settimana per via dei lavoratori che chiedevano un aumento dei salari. La maggior parte di loro sembra aver accettato l'aumento del 24% offerto da Honda, che porta così lo stipendio minimo di un operaio ordinario a 1.910 yuan, circa 230 euro al mese. Ma i fatti di Foshan sono lo specchio di un malcontento sempre più diffuso tra la classe operaia cinese. Con il costo della vita che continua a salire e un sindacato che di fatto lavora per impedire ogni forma di dissenso invece che difendere gli interessi dei lavoratori, gli scioperi sono stati coordinati attraverso internet dagli studenti delle scuole professionali, che devono trascorrere in fabbrica un periodo obbligatorio per uno stipendio inferiore al minimo stabilito. Il sindacato non ci aiuta, dobbiamo fare da noi, si leggeva in una chat prontamente cancellata dalla censura, ma i nuovi operai cinesi iniziano a sembrare meno docili dei loro genitori. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Si svolge da 55 anni del festival più noto in Europa, ma l'Italia non partecipa più. La Germania invece festeggia il successo all'ultima edizione. La Germania è scesa in piazza, da 28 anni non vinceva all'Eurovision Song Contest e ora ce l'ha fatta con la 19enne Lena Meyer-Landrut. Festa in piazza, con tanto di fuochi d'artificio, 40.000 fan ad accoglierla all'aeroporto. Tanto merita il successo a un festival da 120 milioni di telespettatori, al quale l'Italia non partecipa più. Pochi ascolti e l'obbligo di organizzare la manifestazione in caso di vittoria. Troppo oneroso, si dice, ma c'è chi non è d'accordo. Eddie Anselmi, unico giornalista italiano all'Eurofestival, tanto da essere soprannominato Mister Italy. Organizzare l'Eurofestival non è un onere, ma è un'opportunità. Basta pensare che nella sola Oslo hanno riempito 44.000 notti negli alberghi della città. Viene svolto in palazzi dello sport e quindi la vendita dei biglietti è a sua volta una grandissima fonte di introito. In più c'è l'aspetto promozionale, un grandissimo battage promozionale proprio per il turismo. Love, oh love, I gotta tell you, I feel about... ora le città tedesche si litigano l'organizzazione dell'edizione 2011. Sono state avanzate almeno 5 candidature, a cui si è aggiunta poche ore fa quella di Kiel. Il sindaco di Berlino ha parlato proponendo la sua candidatura. Amburgo è la sede della televisione. Monaco è la sede di ProSieben, che è una sorta di Italia 1 tedesca. A Colonia ci sono gli studi di produzione di Stefan Raab, che è stato un po' il coach della spedizione tedesca a Oslo. Monaco di Baviera ha gli impianti olimpici. Sarà una bella gara. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Il calcio verso i mondiali, giornata decisiva oggi per la spedizione azzurra. Il CT Lippi comunicherà gli attesi nomi dei 23 convocati per la fase finale che inizia l'11 giugno. Il reality nazionale chiude i battenti oggi, poi sarà mondiale vero coi nomi dei 23 che voleranno a Johannesburg per difendere il titolo conquistato 4 anni fa nella magica notte di Berlino. Sul volo per il Sudafrica non saliranno in 5, formalmente riserve a casa, di fatto relegati al ruolo di tifosi di chi la coppa se la giocherà invece negli stadi della nazione arcobaleno. In nomination, cioè a rischio esclusione, il portiere Sirigu, il difensore genuano Bocchetti, poi a centrocampo il cagliaritano Cosso, che sembra tagliato fuori dal recupero di Camoranesi e dalla buona annata di Montolivo. Il rebus è in attacco, dove addirittura in due tra Borriello, Quagliarella e Giuseppe Rossi potrebbero essere di troppo. Ma tutto dipenderà dall'Italia che Lippi, CT all'ultimo ballo in azzurro, ha già in mente. Come spiega uno che un biglietto per il Sudafrica già ce l'ha in tasca, Alberto Gilardino. Ho avuto la fortuna di poter giocare anche con un attaccante vicino, con un trequartista, con le due punte nel mondiale del 2006. Mi sono adattato in qualsiasi modulo. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. E questa edizione di GR24 termina qui. In studio, in regia, Paolo Corleoni, in studio Anna Migliorati, che vi augura ancora una buona giornata. Prossima edizione del nostro giornale, come sempre, alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.